Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Archiviando la prima puntata del 1994, ringraziando Walter Porcelli per la consueta corta regia, Cristina Viani per la simpatica collaborazione e tutti voi per l'attenzione, e vi auguriamo una buona giornata e vi rinnoviamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Salve.